GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Turbata dall'incidente che è costato la vita al tifoso emiliano Matteo Bargnaresi e dal conseguente rinvio di Juventus-Parma, la domenica del calcio giocato si accende con la lotta per un posto in Champions e la zona salvezza. L'impresa di giornata è dell'Atalanta che sbanca San Siro battendo il Milan 2-1. Decidono Floccari e Langella, nella ripresa gol rossonero di Maldini, poi Coppola para a Pirro il rigore del possibile pareggio. Sentiamo Ancelotti. Abbiamo trovato di fronte una squadra che probabilmente per la prestazione che ha fatto meritava di vincere, però come abbiamo sbagliato noi, ha sbagliato nettamente anche l'arbitro. Penso che ancora abbiamo delle chance da giocarci, è chiaro che questo andazzo deve cambiare assolutamente, perché doppia sconfitta in casa non va bene. Va all'Udinese lo scontro diretto con vista sull'Europa, 3-1 per i friulani sulla Fiorentina, il tecnico bianconero Marino a Sky Sport. Ma stiamo facendo bene, nelle ultime partite la squadra commette meno disattenzioni, quindi il livello di attenzione è cresciuto, con questo anche la maturità, ecco, di questi ragazzi, perché concedere palle e gol in una certa maniera, come abbiamo fatto in passato, è deleterio per tutti. Ecco. In zona Champions piomba anche la Sampdoria che vince 2-0 a Empoli e raggiunge il Milan a 49 punti. Bene anche il Genoa, il 18° gol di Borriello apre la strada per il 2-0 sulla Regina. Il Torino vince 2-1 a Catania, 0-0 tra Livorno e Siena. Nel posticipo un gol di Hamsik allo scadere vale per il Napoli l'1-0 sul Palermo di Colantuono. Brutte notizie per la Roma che domani all'Olimpico sfida il Manchester United nell'andata dei quarti di finale di Champions. Tra i giallorossi non ci sarà infatti Francesco Totti, bloccato da una lesione muscolare alla coscia sinistra. Spazio ora al motociclismo, trionfo spagnolo in MotoGP. A Jerez della Frontera vittoria per Dani Pedrosa davanti a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Sentiamo proprio Pedrosa a Italia 1. Bueno, è stata una vittoria molto importante per me, prima vittoria qui a Jerez. E sono contentissimo per il risultato, perché non aspettavamo di vincere. Allora siamo molto contenti. È molto, ancora molto presto della stagione e abbiamo già una vittoria, questo è molto importante. Per Rossi quello di ieri è il 100° podio in carriera. Dani è stato molto bravo, non ce l'ho fatta a prenderlo, ma dopo grande lotta con Lorenzo e anche Stoner che erano lì, poi alla fine riuscivo a guidare bene, però sono contento, ci voleva questo secondo posto, adesso speriamo di rimanerci spesso sul podio, sempre direi. Per il basket, nella 29esima di A1, la sconfitta nel derby con Cantù segna la matematica retrocessione di Varese in Lega 2. Nelle gare domenicali, altre due vittorie in trasferta, quella di Biella a Milano e quella di Roma contro la Fortitudo Bologna. Protagonista l'ex di turno, Erazem Lorbeck. È una bella sensazione per me personale e niente, sono felice di riuscire a giocare una buona partita davanti ex squadra e niente, una vittoria molto importante anche per noi. Nel posticipo serale poi il successo di Teramo a Udine. Chiudiamo con la pallavolo, non ce l'ha fatta la Copra Piacenza a conquistare la Champions League maschile. Nella finalissima di Lodz, i biancorossi di coach Lorenzetti sono stati sconfitti per 3-2 dai russi della Dinamo Kazan. Si è giocato anche in campionato però, nella 24esima di A1, successi per Macerata, Modena, Milano e Cuneo. Tra le donne la Coppa Italia va a Bergamo che batte 3-2 Pesaro. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14, ancora una buona giornata. Da Dario Ricci.